Allora, intanto grazie di essere venute fin qua, in queste terre lontane, anche grazie alla Casa del Popolo che non ci sente, però noi ringraziamo lo stesso, perché ancora una volta ci hanno ospitati un evento dopo non poche difficoltà. Questa volta non c'è stata la Digos a disturbare l'organizzazione, perché l'ultima volta che abbiamo fatto una presentazione di mezzo c'era anche la Digos, questa volta no, quindi grazie anche alla Digos. E niente, ovviamente grazie a Valerio Minella e Filo Sottile che hanno fatto un viaggio abbastanza lungo per arrivare qua. E quindi niente, come sapete oggi siamo qua per fare una chiacchiera a proposito di questo, la pubblicazione del libro Se vi va bene, bene, se no seghe, che è una biografia di Valerio Minella scritta da Filo Sottile e Wuming 1. Valerio Minella, Filo Sottile e Wuming 1. Infatti questo adesso ne parliamo perché non è chiarissimo. E quindi niente, vi dico giusto due parole per chi non ha letto il libro, che insomma so che siete un po', ma giusto perché è un libro molto nuovo, là potete acquistarlo e anche contribuire un po' per le spese di questo evento. E quindi il libro appunto è una biografia di Valerio, e diciamo quindi che è nato nel 1950 e il libro arriva fino al 2023. Quindi sono tanti anni, diciamo a livello di volume di pagine si concentra soprattutto fra fine anni 60 e fine anni 70. E quindi vabbè, diciamo che quello. Poi però va avanti, ci sono anche cose interessanti dopo, non è per fare il fetish. Però comunque un po', insomma, diciamo che oltre il fetish è un'epoca che ci interessa abbastanza. Che ha creato, non so, delle pratiche della storia, ma anche un immaginario del quale sicuramente prendiamo tante cose, a volte anche troppe, però comunque è sempre bello ripercorrerlo e soprattutto nel caso del punto di vista che dà di Valerio, che viene raccontato nel libro, è un punto di vista un po' diverso, perché è un punto di vista che almeno a me ha attirato abbastanza l'attenzione il fatto che fugga da etichette. Per dire, penso che in tutto il libro l'unico aggettivo quando parli di te come militante è non violento, che magari anche parleremo dopo, però non ci sono, no? Non si parla troppo di gruppi di identità, un po' sì, un po' no, però comunque non Credo è che ci sia anche anarchico del cazzo. anche anarchico. Possiamo dire che non è un'etichetta, ecco. Comunque, ecco, quindi fugge un po' da tutti quei settarismi che c'erano allora e che ci sono anche adesso, purtroppo, adesso ancora più stupidi, per me. E quindi, ecco, è un punto di vista particolare, per quello ci sembrava interessante portarli qua e parlarne. Poi oggi ho trovato in una delle recensioni, intervista, forse che tu dicevi, chiedendoti perché avevate scelto di fare questo. Anzi, quando Wuming 1 te l'ha chiesto, lui ti ha detto che comunque era una bella scusa per raccontare i 50 anni di movimento, no? E quindi diciamo che anche questo ci sembrava interessante. Poi finisco questa introduzione leggendovi un paragrafetto della fine del libro, che è un appendice che scrive Filo, giusto per farvi capire un po' lo spirito del libro. Dopo parleremo delle diverse vicende. Dice così: abbiamo bisogno di confronto fuori dalle chiese, dalle sette, dalle bolle. Ci serve che comunità altre e le loro elaborazioni ci contaminino. Parafrasando Audre Lorde, non ci interessa l'unanimità, non ci interessa l'omogeneità, ci interessa però l'unità. Le lotte, le riflessioni, l'infamia e i trionfi del passato sono legna per alimentare i fuochi delle resistenze presenti e future. Qui noi tre abbiamo portato un po' di combustibile. Quindi ecco, si capisce un po' l'idea del libro e anche di questa presentazione. Quindi noi abbiamo un po' pensato così temi che ci interessano, ma non abbiamo una scaletta di domande, quindi faremo un po' fluire, adesso faccio una prima domanda, faremo un po' fluire il dialogo e anche da voi, insomma, possono venire quando volete. Curiosità, interventi, quello che è, proviamo a farlo anche un po' più collettivo. Quindi la prima domanda era proprio sul il perché e il come di questo libro. Il perché, perché appunto avete deciso di scrivere questo libro sulla vita di Valerio e perché tu hai accettato di farlo, che non è scontato. E poi sul come, perché diciamo che per chi non l'ha letto, il libro è scritto sotto forma di a leggere, cioè è un'intervista, come se fosse quasi una sceneggiatura di un libro in cui ci sono i personaggi, che sono loro due, Wuming 1, e poi ogni tanto vengono fuori altri, come Radio Alice, che diventa un personaggio che fa piccoli interventi. E quindi questo modo è sicuramente, immagino, questa è la domanda, un frutto di una riflessione, no, di come raccontare una vita. Quindi ecco, questa è la prima domanda, un po' per chi vuole, perché l'avete fatto e perché avete scelto questa modalità concreta. Io dico il perché, dici come? Sì. Buonasera a tutti, grazie di essere qui, grazie di avermi invitato. Perché? Allora, io l'idea di Roberto Wuming 1, che stasera non è qui con noi, ma che tanto tutti conoscete più o meno, è lui che un giorno mi ha detto: bisogna che scriviamo la tua biografia. E io gli ho detto subito: non se ne parla nemmeno, cioè, mi sembrava una roba un po' astrusa parlare di me. Poi invece ci ho ragionato, perché lui dice: no, ma non è parlare di te, è parlare di quello che è avvenuto in allora, usando te, che sei stato protagonista di tutte queste cose. E effettivamente io sono stato, bene o male, protagonista, ho partecipato a molte cose. E allora in quest'ottica ho deciso che si poteva fare. È sì una biografia in forma dialogata, in forma di intervista, ma come potrebbe essere un'intervista che facciamo seduti a un tavolo con un bicchiere di vino in mano, insomma. E da questo punto di vista mi pare che funzioni anche per il lettore, che si regga abbastanza bene. Tutti mi dicono che si regge bene, e la forma è stata data, plasmata da Wuming, che essendo il maestro che aveva molto bene chiaro in testa come doveva essere il libro. Le parole sono le mie, però la forma l'ha data lui. E alla fine, perché è questo libro? Questo libro è pensato nella mia testa per le giovani generazioni, e io qui sono piuttosto contento perché vedo un sacco di persone giovani. E a volte mi trovo a fare la presentazione del libro dove trovo tante care persone della mia età, a cui magari voglio anche bene, perché magari le conosco anche, ci ho vissuto una parte delle esperienze, ma a cui non ho niente da insegnare, nel senso che conoscono già quelle esperienze. E invece, secondo me, la cosa interessante, che potrebbe essere, spero sia interessante per i lettori del libro, è vedere che è possibile fare cose, è possibile uscire da alcuni schemi. Magari dopo approfondiamo questo discorso, però noi oggi, per dire, che è una cosa che io sento molto, usiamo le tecnologie che ci vengono messe a disposizione, le usavamo allora, le abbiamo usate poi, le usiamo oggi le tecnologie, ma continuiamo, spesso le usiamo esattamente per come ci vengono proposte. Usiamo i social e li usiamo per come ci vengono dati, usiamo gli strumenti che per come si usano tradizionalmente. Ecco, con Radio Alice, perché sicuramente parleremo di Radio Alice, con le TV di strada, di cui forse parleremo, e con altre tecnologie, è possibile, è stato possibile e può essere ancora possibile rovesciare il modo di utilizzarle, cambiare proprio prospettiva, uscire dagli schemi, dai margini, usare la comunicazione in maniera diversa da quella che qualcuno si aspetta, insomma. I giornali sono fatti con le loro colonne in una certa maniera, con certe logiche di composizione del testo. Quando negli anni 70 Bologna facevamo Attraverso, per dire, era una rivista in cui tutte le parole erano messe in tutte le posizioni, in tutte le forme, in tutte le dimensioni possibili e immaginabili. Uscivano dagli schemi. Ecco, io spero che il libro dia idea di come uscire dagli schemi. Grazie. Ciao a tutti, tutte e tutte. Grazie dell'invito. E come è stato organizzato, strutturato, pensato, prodotto questo libro? La premessa è questa: io sono una collaboratrice abbastanza di lunga data del collettivo Wuming e ho sempre fatto per loro i lavori di bassa manovalanza letteraria, cioè trascrizione di interviste, fact-checking, queste robe qua, a partire da Point Lenana, che poi è uscito nel 2013. Ho lavorato spesso per soprattutto con Roberto, con Wuming 1, appunto ingaggiata ufficialmente per trascrivere. Poi dopo, di solito io mi entusiasmo, mi prendo bene e per cui quello che ascolto e che devo trascrivere vado a verificare che sia davvero accaduto in quella data, che il riferimento che viene dato oralmente abbia un riscontro d'archivio. E in questo unisco anche il fatto di essere una bibliotecaria, per cui con quel pallino lì della riscontrabilità in archivio delle cose. E nel momento in cui è partito questo progetto, che era una lunghissima intervista di Roberto Wuming 1 a Valerio Minnella, io sono stata ingaggiata in quel ruolo. Il mio nome questa volta è finito in copertina, non è rimasto fra i credit finali perché forse mi sono presa troppo bene, mi sono presa troppo spazio, ma comunque è stato un lavoro davvero entusiasmante perché davvero Valerio sia per volontà o sia per fortuna o sia per la combinazione di entrambe le cose ha attraversato momenti nodali della storia di questo paese e si è trovato testimone e protagonista o comprimario, insomma figurante di volta in volta in ognuna delle occasioni a testimoniare, no? Trasformazioni importanti, momenti in cui sono accadute cose. E per cui Robert Wuming 1 all'inizio, no? Ha capito che questa era una storia da raccontare, non tanto, no? Poi Valerio è un'ottima persona ed è importante raccontare anche la sua storia, ma proprio perché andava a toccare cose che sì, sono del passato, ma che parlano direttamente al presente. E c'era il punto, no, di come raccontare questa storia, come renderla utilizzabile, no? È quello che diceva Valerio poco fa, no? Lui dice, nel momento in cui io ho accettato, avevo in mente le persone più giovani. Come si fa a passare un'informazione nel momento in cui apparentemente tutto lo scibile umano è a portata di click, ma in realtà la comunicazione è così difficile, no? Passare le storie, passare le modalità, passare il contenuto delle storie, passare ciò che vale, ciò che può essere riutilizzato, che non è il contenuto, è ciò che io posso trasformare e riattualizzare e far e rendere vivo oggi. No, quindi una cosa lontana da qualsiasi tipo di feticismo e di romanticizzazione. Il lavoro è stato strutturato come una strana intervista, nel senso è stata un'intervista fra una serie di interviste, adesso ho perso il conto di quante ore di intervista ho trascritto, comunque più di 20, all'interno di questo materiale che io mano a mano trascrivevo inserivo le domande che secondo me non erano state fatte o quelle che mi venivano in mente oppure le mie curiosità da persona che, no? Valerio è del 50, Vuminguno è del 70, io sono nata nel 78, per cui tutta una serie di riferimenti per me sono puramente storici e completamente zero esperienziali, no? Per cui c'erano una serie di cose che io potevo andare a rintracciare in archivio ma che non avevano nessuna memoria per me, per cui ho fatto quel tipo di domande anche, oppure quelle che, no, incrociando le parole di Valerio, quelle di Vuminguno e i dati d'archivio venivano fuori in conseguenza, una persona che aveva avuto anche un giro di informazione in più in quel momento, per cui all'inizio non era chiaro come sarebbe stato strutturato e, devo dire la verità, io a un certo punto mi ero fatta anche tutta un'altra idea su come sarebbe venuto il libro. Poi in realtà è venuto fuori nella sua maniera più naturale, che è quella dialogica, anche se appunto i miei interventi in realtà sono stati via mail, via vocale su Telegram e non in diretta, nel senso che loro si sono viste a Bologna e nei dintorni, io sto in provincia di Torino. E a me l'impressione che dà dal punto di vista letterario, della forma letteraria, a me sembrava un romanzo di Conrad, nel senso che i romanzi di Conrad sono scritti così, a volte esplicitamente, a volte implicitamente, come una chiacchierata di persone davanti a un fuoco, no? Che stanno ragionando e narrando eventi accaduti nel passato. E questa è di fatto la forma di questo libro, per cui ci sono parti narrative e ci sono parti di riflessione. E le parti di riflessione sono appunto condivise soprattutto fra Valerio e Vuminguno. Quindi il lavoro è stato questo. Nella postilla finale a questo libro che ho scritto io ho cercato di liberare il codice, perché secondo me abbiamo bisogno di recuperare le memorie delle lotte passate e per capire come evitare le cazzate fatte nel passato e per capire come invece recuperare la forma di ciò che è funzionato. Le condizioni sono mutate, sono a volte radicalmente mutate, però i ragionamenti che ci sono alla base possono essere ancora utilizzati e riadattati. E per cui un lavoro di questo genere secondo me è molto importante ed è molto importante nel contenuto, perché appunto dal 69, dal 70 fino a pochi anni fa Valeria ha attraversato tante stagioni di lotte importanti, ma sono importanti anche nelle forme, perché come ha detto Valerio si è trovato in una serie di situazioni in cui gli strumenti dati sono stati hackerati e sono stati piegati ad altri fini, e per cui appunto questa è l'utilità di questa operazione ed è utile che di libri come questi ce ne siano tanti altri su tanti altri frangenti di lotta che ci sono stati in questo paese. Infatti parliamo, uno dei primi posti in cui sono successe queste storie è la Sicilia. In particolare Belice, sì, in effetti potrebbe essere un ottimo punto di inizio, anche perché fra il come di questo libro c'è il fatto che è stato poi esposto in modo cronologico, quindi partiamo appunto al 1950 e arriviamo ad oggi. E uno dei primi punti interessanti è proprio quello che succede in Sicilia fra il 1968 e i primi anni 70. E quindi qua mi sembrerebbe interessante ricoinvolgere subito Filo, perché magari, visto che lei ha fatto un ottimo lavoro di approfondimento anche archivistico, di darci un po' il contesto di quello che succede appunto con il terremoto del Belice e appunto negli anni immediatamente seguenti, e poi magari chiedere a Valerio perché lui arriva proprio lì, perché proprio in quel momento, e che tipo di istanze iniziano a portare avanti e come interagisce con la popolazione locale, anche perché poi lì vedremo che ci sono tutta un'altra serie di attori, uno per esempio Danilo Dolci, insomma una situazione abbastanza effervescente. Quindi ecco, io darei magari a Filo di darci qualche indicazione iniziale e poi andiamo da Valerio. Cerco di farla breve, perché secondo me la parte succulente è quella che può raccontare Valerio, anche se dal punto di vista storico è anche succulenta quella che poi ho provato a delineare io. Sostanzialmente gennaio 1968 in Belice c'è un grosso terremoto che rada al suolo diverse cittadine e mette in ginocchio una popolazione che è già in grossa difficoltà economica. Insomma, il Belice era una zona ampiamente depressa. Solo che questa... Come? Non a caso. Esatto. Solo che questa, no, cioè il terremoto è una di quelle cose che viene e stop. Però invece la povertà e l'indigenza non sono a caso, come suggeriva giustamente Valerio. Quella disgrazia lì arriva su un territorio che ha già, non da molto, ma da qualche anno, ha già intrapreso un percorso di lotte e di politicizzazione. Per cui, a differenza di quello che poi è la narrazione mainstream di quel terremoto e delle reazioni, la risposta politica della popolazione, delle popolazioni colpite secondo me è una delle esperienze politiche più esaltanti che ci siano state in questa nazione, nel senso che i comitati di baracca riescono, grazie appunto a esperienze che già c'erano in quegli anni, le esperienze di Danilo Dolci portate avanti poi dai suoi comitati territoriali, fanno un lavoro politico raffinatissimo, profondo, che ingaggia delle lotte con il metodo non violento e che ottengono delle cose. Cioè, lì per lì vincono battaglie epocali, no? E poi quella che poi è stata nel 72, nel dicembre del 72, l'approvazione della legge che permetteva alle persone di fare un servizio civile alternativo alla leva obbligatoria, nasce in Sicilia, e Valerio non a caso, no? È andato in Sicilia, e poi ve lo racconta lui fra un secondo. Non è l'unica istanza portata avanti in quel frangente. Poco fa, mentre chiacchieravamo, bevevamo birra e vino, mi è venuto in mente, questa cosa poi nel libro non compare, non ne faccio menzione, ma nel momento in cui nel 1976 c'è un terremoto in Friuli, una serie di esperienze politiche di auto-organizzazione di persone terremotate vengono direttamente da quella precedente esperienza, no? C'è un collegamento diretto di passaggio di informazioni, di auto-organizzazione e di coscienza, che è anche coscienza di classe, volendo. E per cui no, è in quel frangente lì che quello è un momento, insomma, secondo me dimenticato, ma molto importante delle lotte territoriali e politiche di questo paese. Adesso lascio la parola a Valerio, che ci dice perché è andato lì e come. Perché e come? Io nel 70 devo partire per il servizio militare. Allora il servizio militare era un problema che attanagliava tutti i giovani maschi, perché tutti sapevamo che, salvo quello fortunato che veniva riformato, avremmo dovuto buttare via uno o due anni della nostra vita per fare il servizio militare. Io decido che farò obiezioni di coscienza. Non ho idea di come si faccia obiezioni di coscienza, ho solo capito che io militare non ho intenzione di farlo. E vado nel 70 alla marcia antimilitarista Trieste-Aviano, che è una marcia organizzata dai radicali che allora erano non violenti e antimilitaristi, e dal Movimento per la Pace di Perugia, ed era una marcia che durava 10 giorni da Trieste, no, scusatemi, da Milano a Vicenza, poi diventerà da Trieste a Viano dal 72 in avanti, ma allora era da Milano a Vicenza, si camminava 10 giorni, una 30 chilometri al giorno, con i cartelli antimilitaristi attaccati sulle spalle, volantinando lungo i percorsi, facendo un po' di piccoli spettacoli, manifestazioni la sera nella cittadina in cui ci si fermava a dormire. Vado lì perché so che lì troverò altri. Trovo effettivamente un sacco di altra gente interessata al discorso antimilitarista non violento, la marcia è fatta per quello, e trovo gli operai della Valsusa, visto che poi i ricorsi storici si susseguono negli anni, che sono poi i compagni di filo anni dopo nella lotta Notav, ma trovo anche un gruppo di giovani che viene dalla Sicilia, la Valle del Belice. Io c'ero già stato l'anno prima, nel 69 ero andato giù 15 giorni a dare una mano post terremoto con il badile in mano e a fare quelle poche cose che può fare uno che arriva lì, a dare una mano con gli scout, perché facevo parte del movimento scout. Questi ragazzi del Belice mi raccontano che loro hanno deciso di fare obiezioni di coscienza, tutti insomma, di massa, perché vogliono fare un servizio civile per la ricostruzione della valle, dei paesi post terremoto, e mi dicono: vuoi fare obiezioni di coscienza? Vieni giù da noi, lavora con noi, dacci una mano a organizzare questa cosa. E io vado. Io ho questa abitudine, traspare un po' nel libro, che quando mi propongono di fare una cosa la faccio. Dice: ma com'è che hai fatto tante cose? Non mi sono mai tirato indietro. E con me vengono giù altri due giovani, Franco e Nando, che anche loro hanno intenzione di fare obiezioni di coscienza e che come me cercavano una strada per farla. Cosa è stata l'obiezione di coscienza fino a quel momento? L'obiezione di coscienza fino a quel momento è stata una testimonianza individuale di alcune persone meravigliose che hanno fatto un atto meraviglioso, che era quello di andare in caserma e rifiutarsi di indossare la divisa. Meraviglioso ma poco conosciuto. Non usciva dalle quattro mura della caserma, qualche trafiletto sui giornali, poco di più. Perché era al chiuso di questa caserma, il loro rifiuto da soli, e pochi ne sapevano qualcosa. E questa idea invece di andare giù e trovare una comunità già interessata a rifiutare il servizio militare mi stuzzicava. Ma vado giù senza avere idea di che cosa troverò. E trovo in verità una comunità che mi sorprende. Intanto mi sorprende per come mi accolgono. Io arrivo in Sicilia e sono automaticamente parte di questa comunità siciliana. Come se io fossi nato lì, come se avessi sempre vissuto lì. Non c'è nessuna differenza fra me, ultimo arrivato, e loro. Che è una roba che ti... ti stupisce anche un attimo, no? Chi mi accoglie in Sicilia? Mi accoglie il Centro Studi e Iniziative Valle del Belice, o Valle del Belice, c'è una diatriba sull'accento. No, ma il bello è che i siciliani del luogo dicono Belice quando parlano del fiume, ma dicono Belice quando parlano della valle. Quindi è un po' strana la cosa. Comunque, al di là dell'accento, quello che importa è questo gruppo di persone, che è un gruppo di persone che è uscito dal Centro Studi e Iniziative di Danilo Dolci di Partinico, vicino a Partanna, vicino a Palermo, scusatemi, Partanna è dove vado io, vicino a Palermo. E Danilo Dolci allora molto poco conosciuto in Italia, io avevo letto due cose, ma due cose proprio. Però è stato uno dei grandi protagonisti del metodo non violento in Italia in quegli anni. Ed è uno che ha insegnato molto a tutti quanti. Dal gruppo di Danilo Dolci si era staccato Lorenzo Verbera e altri che avevano aperto il loro centro studi in Valle del Belice e nel frattempo è arrivato il terremoto. Cosa fanno questi signori, che è molto interessante, banalmente? Cos'è la loro lotta politica, sociale, il loro intervento sul territorio? È ascoltare i bisogni della popolazione, che sembra banale, e invece banale non è. E che cosa serve a una popolazione in un posto terremotato? La casa. Loro chiamano un gruppo di architetti da tutta Italia, in particolare ricordo Peppino Susani di Venezia, e li chiamano lì e questo gruppo di architetti si mette a studiare tutto quello che interessa la ricostruzione, studiare le mappe geologiche dove ci sono, studiare i progetti presentati nei comuni, studiare tutte le mappe catastali e cominciano a ragionare su che cosa vuol dire ricostruire, perché ricostruisco fuori dal paese o ricostruisco dove c'era il paese prima? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi dal punto di vista sociale? Non avere più la piazza simbolica, dal punto di vista dei costi, dal punto di vista della viabilità, ci sono mille problemi che vanno affrontati, no? Banalmente loro si rendono conto che a Partanna, il paese in cui c'è la sede del Centro Studi Iniziative, il progetto del sindaco, guarda caso, è un progetto fatto a valle del paese storico. Ma se vai a vedere bene catastalmente, scopri che tutti i terreni intorno ai lotti stabiliti per la ricostruzione sono di proprietà della famiglia del sindaco o di un'altra famiglia mafiosa della zona. Ovvio, il giorno che ha ricostruito e il paese deve espandersi, quella zona lì lieviterà come valore in maniera spaventosa. Cosa fanno questi architetti? Spiegano alla popolazione in decine di assemblee popolari quali sono i loro interessi, quali sono le ragioni per cui si costruisce lì, per cui sarebbe meglio costruire da un'altra parte, come, perché e così via. E la popolazione capisce benissimo, perché quando tu spieghi bene quali sono i meccanismi tecnici, le persone sanno quali sono i loro interessi. E capiscono, non è vero che non capiscono, capiscono benissimo. Il problema è che non sanno i meccanismi e quelli li devi raccontare, ma le scelte le sanno fare. E vi do solo un'idea che racconto nel libro. Quando un giorno si deve decidere, c'è la riunione del Consiglio Comunale per decidere come ricostruire, dove ricostruire, siccome anche il municipio è crollato e anche quello è una baracca, non c'è modo di entrare a assistere alla riunione di consiglio, la popolazione impone, radunandosi in piazza, gli altoparlanti in piazza, perché vogliono sentire chi dice cosa. Non che poi dopo viene fuori e mi dici: ah, sai, io avrei votato a favore, ma poi ero in minoranza. No, voglio sentire con le mie orecchie chi dice sì, chi dice no. Un livello di coscienza che è oggi inimmaginabile, insomma. Ecco, nel libro sono raccontato tutta una serie di cose. Ho raccontato che organizziamo 1000 siciliani e li portiamo in piazza Montecitorio a Roma per premere sui politici perché venga ammesso il servizio civile per i giovani, perché i soldi, i fondi per la ricostruzione vengano erogati e così via. 1000 siciliani accampati in piazza Montecitorio. Non si è mai più visto una cosa di questo genere. Si sono viste le Nuit de Debout a Parigi qualche anno fa, della gente piazza Tahrir in Turchia, no? Noi lo facemmo nel 70, portare 1000 persone in piazza Montecitorio. Fummo ricevuti a Pertini, che allora era il presidente della Camera e non è ancora il presidente della Repubblica. Tra l'altro racconto l'episodio di Pertini che me lo fa amare molto, perché si incazzò con noi di brutto e uscì sbattendo la porta, perché Pertini era una persona vera, non era un politico, era uno che trattava con te come avrebbe trattato con te qualsiasi amico, qualsiasi altra persona con cui dialogavi quotidianamente. Non era uno rigido nel formalismo del politico, insomma. E c'è una risposta in Sicilia da parte della popolazione in questa lotta per ottenere la ricostruzione nei tempi che rimangono comunque lunghissimi, ma più brevi possibili, che è unica e secondo me è una storia questa della Valle del Belice che andrebbe studiata proprio dal punto di vista dei movimenti in Italia in assoluto. Filo so che vuole scriverci un libro solo su questo discorso qua, spero che lo faccia, perché al solito è una delle tante esperienze italiane che sono rimaste nascoste e non si conoscono, ma invece dovrebbero essere raccontate. La cosa interessante dal mio punto di vista di obiettore di coscienza è che otteniamo il servizio civile per gli obiettori per i giovani della Valle del Belice. Due anni prima della legge sull'obiezione di coscienza. È una roba minima, perché è una roba circoscritta alla valle, però è la prima volta in Italia in cui si spacca il concetto del fare il militare è una roba indispensabile, è la cosa che ti rende uomo, è un servizio indispensabile per la nazione. È la prima crepa nella logica militarista del servizio militare. E sarà appunto la base da cui partiremo per ottenere la legge sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza valida per tutti i giovani italiani. Proseguo su questo discorso? Oh. Una noticina velocissima su questa questione qua. La nota è che questo passaggio, magari un po' dimenticato, forse no, in realtà è qualcosa che risuona, almeno a me è sempre risuonata nella testa la questione della Valle del Belice, in qualche modo l'avevo letto ma non avevo mai approfondito veramente quello che era successo. E la nota riguarda il fatto che quella che potremmo chiamare l'emergenza terremoto che avviene in Belice diventa un motivo di antimilitarismo, diventa un motivo di auto-organizzazione della popolazione locale grazie al lavoro che fecero i centri studi, i comitati, eccetera. Ed è, credo, anche in qualche modo simile anche alla vicenda del Friuli, che a me sta molto a cuore, anche se poi è un po' passata con una retorica nazional popolare, non so, magari avremo modo un giorno, quando verrai a presentare il libro sul Belice, parleremo magari anche del Friuli e di come sono passate certe vicende, il ruolo del vescovo di Udine, eccetera. E quindi questa retorica per cui prima si ricostruiscono le attività produttive, poi le case, infine le chiese, sono cose che risuonano nella mia memoria da quando ero piccolo. Però quello che a me interessava far notare è che queste questioni qua, parli a un certo punto anche dell'alluvione, no? Di Firenze, passata agli angeli del fango, eccetera, però come motivi comunque di auto-organizzazione dove le popolazioni in qualche modo pretendono di decidere e lo fanno attraverso le loro lotte, le loro mobilitazioni. Cosa che non avviene in tempi recenti, no? Mi viene l'esempio dell'Aquila, di cui ho sentito tanti episodi, che invece è stato, a differenza di quei terremoti là, motivo di militarismo sempre più estremo, i campi controllati dai militari, le regole, lo Stato che impone dall'alto la ricostruzione e, mi farebbe da dire, anche i recenti anni pandemici, dove di nuovo lo Stato, i militari dall'altro, che calano la risposta rispetto al problema. Era una nota, non so se vogliamo, se volete riprenderla un attimo e approfondirla ancora un po', se no facciamo un passo avanti, perché la questione del servizio militare obbligatorio, della leva e dell'obiezione di coscienza, insomma, va avanti ancora per un pochino. E Valerio finisce anche in carcere militare, perché se si era obiettori in assenza di quella legge un po' capestro, no? Lo racconti anche tu, che arriva nel 72, si finiva in carcere. Tra l'altro non è che ti punivano una volta e poi finiva lì, tornavi in carcere ogni volta che arrivava la cartolina. E quindi, se magari vuoi raccontarci un po' di questa vicenda, di come prosegue, di come si arriva a quella legge del 72 sul servizio civile alternativo. E non lo so, magari introduco subito, così facciamo anche questo passaggio, rispetto a quei primi tentativi di costruire il servizio civile alternativo alla leva, ovviamente in un campo tutto aperto, perché nessuno l'aveva deciso, e così per, come dire, per chiudere questa prima parte anche del libro, che è un po' la parte sull'antimilitarismo, no? E queste vicende che sono magari passate un po' in sordina, ma che sono state estremamente significative, hanno riguardato anche diverse centinaia di migliaia di persone. Beh, intanto un piccolo aneddoto rispetto al discorso dell'auto-organizzazione, della partecipazione, che prima di parlare appunto del servizio, delle obiezioni di coscienza e del servizio civile, una cosa che fa capire molto bene come i tempi siano cambiati molto, non solo perché abbiamo il generale Figliuolo, ma che domina la pandemia piuttosto che non il prossimo futuro terremoto che tanto arriverà. È proprio la mentalità diversa di quegli anni anche dal punto di vista dei politici. I siciliani decidono un giorno, prima che arrivassi io, di tenere un processo ai politici. Il famoso processo di Roccamena, lo descrive molto bene Filo. Ottobre 68. Ottobre 68, ecco. È la memoria storica. In questo processo i siciliani scrivono un atto di accusa e lo mandano a tutta una serie di politici, Forlani, non mi ricordo più quali, dicendo: vi imputiamo queste cose, il giorno X, nell'ottobre 68, venite a difendervi, come fosse un processo vero. Voi potete immaginare? Bene, sapete che cosa è successo? I politici hanno risposto. Qualcuno è venuto al processo a farsi processare di fronte alla popolazione, altri hanno scritto una memoria difensiva e l'hanno mandata dicendo: noi no, siamo stati bravissimi, cosa vuoi che dicessero che non erano stati bravi, però per i politici parlare con la gente era parlare con un interlocutore che aveva senso rispettare. Vi immaginate oggi di fare un processo ai politici che abbiamo adesso? Non parlo di Salvini, anche i più accettabili che ti rispondono, vengono a... Questi politici sono venuti, sono stati condannati, condanne tipo fare una settimana di lavoro presso un non so che cosa più. Una settimana in tenda, un mese sulle, alla, un mese, a guidare il cane sulle strade. Nella scuola polemica sì. Di qualcuno sì, che sì, era, sì. Fra Dolci e... Fra Danilo Dolci e Lorenzo Barbera sarà uno dei momenti, la ragione della separazione fra i due gruppi, insomma. Però non ha importanza, parliamo di un periodo in cui era possibile in qualche maniera essere protagonisti, sicuramente, perché avevi come popolo il rispetto anche dei politici, che erano già ladri allora, che erano tutto quello che vuoi, però avevano un rapporto diverso da quello che hanno i politici di oggi con noi. Chiudiamo. Obiezioni di coscienza, sì. Noi avevamo fatto questa esperienza, io, Nando e Franco in Valle del Belice, cominciamo a domandarci come proseguire la nostra attività per l'obiezione di coscienza. Cos'era l'obiezione di coscienza? L'obiezione di coscienza non esisteva, era una parola nostra, era una parola che si usava nei paesi fra virgolette civili, ma in Italia non esisteva. Esisteva solo il fatto che se tu non ti presentavi in caserma ti condannavano per mancanza della chiamata, Se invece ti presentavi e ti rifiutavi di indossare la divisa, ti condannavano per disobbedienza. Ma erano due reati, il perché facevi queste cose non era contemplato proprio dallo Stato. E prima di noi c'erano stati tutta una serie di obiettori, come raccontavo prima, che avevano rifiutato. Noi ci rendiamo conto di aver già fatto qualcosa di diverso in Sicilia, perché non ci siamo presentati, invece di presentarci in caserma e rifiutarci di indossare la divisa, non ci siamo andati proprio, siamo rimasti a lavorare sul territorio, non ci siamo nascosti. Io vado in Sicilia, prendo la residenza in Sicilia, sto lì ufficialmente, ma nessun carabiniere viene a cercarmi. E nel frattempo la cartolina in ottobre era arrivata. E a gennaio 71 decidiamo di proseguire la nostra esperienza diversamente. Salutiamo i compagni siciliani e cominciamo a diffondere in giro per l'Italia la nostra intenzione di fare un'obiezione di coscienza collettiva, non più come singoli individui che si presentano da soli come poveri pirla in caserma. E il momento è maturo, ci sono già tutta una serie di gruppi non violenti, antimilitaristi, libertari in Italia che hanno fatto proprio il verbo antimilitarista non violento, e tramite loro riusciamo a raggruppare 8 persone e facciamo un'obiezione di coscienza in 8, scrivendo un unico documento politico che, vabbè, lo rileggevo per il libro, riletto adesso è estremamente retorico, però sono parti proprio la società in classe, i militari che difendono. Grazie, va bene. Io l'ho trovato un po' retorico, ma va bene, però ci stava. Erano 50 anni fa. E in quel momento era sicuramente nuovo. E ci presentiamo non più come Valerio, Nando, Franco, Neno, Alberto e così via, ma ci presentiamo come collettivo abbaino, perché stavamo a casa del Neno a Milano, che aveva un'unica finestra nel tetto, però ci presentiamo come collettivo, pur essendo tutti di estrazione diversa, perché io ero un anarchico del cazzo, come si diceva prima, magari, se ricordo bene, Franco era più marxista, Alberto era un cattolico, proprio cattolico, quindi lo faceva con una motivazione anche religiosa, non solo politica e così via, però il documento va bene a tutti. È buono per tutti ed è quello di tutti. Questo fatto di uscire come gruppo, non più come singoli, è una roba che scatena un'azione, perché tanta gente che avrebbe fatto obiezione di coscienza, ma che poi non se la sentiva da soli a andare in galera, perché andare in galera improvvisamente dice: non sono più solo, ma se siete già in 8 ci sto anch'io, allora ci sto anch'io. Ecco che allo scaglione successivo non siamo più 8, siamo 16, allo scaglione successivo siamo 40 e così via, e c'è una progressione numerica estrema. Il momento culturale, come dicevo, era giusto, è il 71, e quindi questa cosa procede. C'è da interessante da dire questo, c'è da dire che le carceri militari contenevano teoricamente 250 persone. Peschiera, Gaeta, Forte Boccea sono i carceri militari, poi c'è un pezzetto a Palermo, un pezzetto in Sardegna. 250 persone, ce n'erano già dentro oltre 400, perché il sovraffollamento carcerario non è di oggi, il sovraffollamento carcerario è di sempre. Tutte le carceri militari e civili sono sovraffollate. Ce n'erano 400 perché già c'erano 200 testimoni di Geova, che non sono obiettori di coscienza, i testimoni di Geova. Non sono obiettori di coscienza perché loro si considerano parte dell'esercito di Dio, quindi di un altro esercito, sono solamente sono indisponibili. Io ovviamente non li capisco, ma rispetto la loro scelta. E comunque non si può pensare di riempire ulteriormente le carceri. E se eravamo già 40 noi, già sapevamo che per il 72 saremmo stati 200, perché appunto la progressione numerica era spaventosa. E questa è una cosa che ovviamente fa capire anche al Parlamento, che deve tirare fuori dal cassetto dove esisteva la prima proposta di legge sull'obiezione di coscienza del 1948, tirare fuori una proposta di legge e in qualche maniera risolvere questo problema. Ci sarà anche un altro fatto a fianco, ci sarà un famoso sciopero della fame di Marco Pannella e di Alberto Gardin, uno degli obiettori, che durerà giorni e giorni e giorni per l'obiezione di coscienza e per la liberazione di Valpreda, perché siamo nel 71, nel 72 già adesso, e Valpreda è ancora in carcere. E lo dico oggi pensando che oggi è anche il giorno in cui è stato assassinato Giuseppe Pinelli, che non va dimenticato, il 15 dicembre. Assassinato, che sia chiaro. E va bene, insomma, queste cose qui fanno sì che a dicembre, il 15 dicembre del 72, il Parlamento approva la legge sul servizio civile e sull'obiezione di coscienza. È una legge orrenda, è una legge punitiva, fa veramente schifo. Ma intanto l'obiezione di coscienza è approvata, la NAIA, il servizio militare, non è più un dogma. Ed è una legge che, ridendo e scherzando, interessa negli anni successivi 800.000 giovani, no due, 800.000. Per cui, insomma, è stata una conquista di un certo valore. Non ho raccontato quello che dicevi tu, cioè che sono stato in galera. Ci sono stato due volte. Mi arrestano la prima volta per obiezione di coscienza, due volte. Mi arrestano la prima volta nel 71, a gennaio del 71, e faccio 3 mesi e mezzo di carcere per mancanza della chiamata, io insieme a Nando Paganoni, perché ci arrestano insieme, e mi arrestano una seconda volta nel 72, a marzo, e lì faccio 6 mesi, perché c'è la recidiva, cioè è la seconda volta che compio lo stesso reato, quindi non ho più attenuanti. Questa del 72 è divertente e vale la pena anche raccontarla, la racconto nel libro, ma è più divertente perché nel 72 ci facciamo arrestare, non siamo arrestati per caso. Ci facciamo arrestare a Torino, ci facciamo arrestare insieme a centinaia di persone che sono in piazza con noi, dove bruciamo le cartoline, che è questa cosa che avevamo visto fare dai, dai ragazzi del Vietnam, no? Che bruciano le cartoline di richiamo per il Vietnam. E lo facciamo anche noi, poi andiamo dai carabinieri e gli diciamo: siamo qui, arrestateci. Chi siamo? Siamo tre, dovevamo essere quattro, ma uno di noi, Alerino, era stato arrestato per conto suo, per conto proprio, da solo. Quindi siamo tre e siamo Valerio, Gianni Rosa e Roberto Ciccio Messere. Roberto Ciccio Messere per i giovani è un nome, secondo me, sconosciuto. Ma in quel momento è un nome molto conosciuto, perché era il segretario nazionale del Partito Radicale. Tutti conosciamo Marco Pannella, ma il segretario nazionale del partito era Roberto Ciccio Messere, che era ancora in età di leva, perché aveva rinviato per l'università, e che si fa arrestare con noi. Persona conosciuta in ambito parlamentare, anche se lui non era parlamentare, però bazzicava l'ambito parlamentare, essendo il segretario del partito, e molto conosciuto giornalisticamente. Per cui la cosa ha anche un certo valore dal punto di vista della comunicazione, perché il segretario nazionale del Partito Radicale che si fa arrestare è una cosa che compare su tutti i giornali. Faceva parte di quella tentativo di comunicare molto di più di quello che avevano comunicato i nostri predecessori. E siamo in piazza Statuto, credo, a Torino, in via Lagrange, grazie. bruciamo la cartolina, andiamo ai carabinieri, gli diciamo: arrestateci. Ah no, no, noi non sappiamo niente. C'è il gruppetto dei carabinieri lì che presidia la piazza. Ma come, avete visto che abbiamo bruciato la cartolina? Ah no, no, per noi poteva essere un pezzo di carta qualsiasi, eravamo lontani. Fine turno. Vabbè, e allora? Ah, se avete qualcosa da dire, venite in caserma. Ma volentieri, veniamo in caserma. Con centinaia di persone dietro, però. Una manifestazione autorizzata dai carabinieri in quel momento, un vero e proprio corteo, che ci porta alla caserma dei carabinieri, dove ci presentiamo e diciamo: ci dovete arrestare. Ah sì, però oggi è un po' un problema. Non potete tornare domani? Non funziona così, non funziona così. Se non ci arrestate, siamo costretti a denunciarvi per omissione d'atti d'ufficio. Ah vabbè, insomma, telefonata con i piani alti, ci arrestano e così via. Comunque, insomma, è un arresto per obiezione di coscienza che fa parecchio scalpore. Due parole sulle carceri militari, se permettete, perché le carceri militari vanno spiegate. Tutti sapete cos'è un carcere. In qualche maniera tutti sapete che cos'è una caserma. Il carcere militare è la somma dei due, non è solo uno dei due. Sei in carcere perché è un vero e proprio carcere, ma sei in caserma. Quindi il secondino non è una guardia, è un tuo superiore gerarchico, quindi quello che ti dice è un ordine. Quindi se tu non fai il cubo, che è il cubo? Il cubo è il materasso che viene piegato sopra la branda in tutte, non so oggi, ma allora in tutte le caserme, bisognava piegare il materasso a cubo. Vi chiederete perché? Ma perché sono imbecilli, perché gli militari sono imbecilli. Cioè non è che c'è una ragione. Anche se ci sono, guarda, cioè, per perché il problema non è il singolo, ovviamente, è la comunità, è il fatto che tu obbedisci e obbedisci all'ordine, non importa se l'ordine ha un senso o non ha un senso. Fai il cubo, perché fai il cubo? Perché si fa il cubo. Cioè, se non fai il cubo vai in cella di punizione. Noi in cella di punizione ci andavamo comunque, perché ovviamente parlavamo, facevamo casino. Roberto Ciccio Messera, che era bravo da questo punto di vista, un'esperienza politica notevole, praticamente passa un mese in cella di punizione, perché ogni volta che usciva in cortile, dopo 10 minuti, lui finiva su una panca in piedi con tutta la platea dei militari sotto a ascoltare, che gli spiegava che cos'era l'esercito e così via. E infatti lo trasferiscono dopo poco in un carcere in Sardegna, che è un carcere microscopico che c'ha solo 10 posti, perché così lì non può fare danni. E comunque noi ci finiamo spesso in cella di punizione, perché non stiamo zitti, perché non seguiamo le regole, perché stranamente siamo, racconto un po' di cose nel libro, siamo sempre pieni di giornali e riviste che non dovremmo avere. C'è la censura nel carcere militare. Ogni lettera che scrivi, ogni lettera che ricevi viene letta, censurata. E decidono, allora perlomeno, adesso non so come sia oggi, decidono se quella lettera parte o comunque ti viene consegnata oppure no. Se chiedi un libro, ti fai portare un libro, quello viene visionato e si decide se quel libro può entrare in carcere. Se compri un giornale, i giornali ti arrivano con gli articoli tagliati, perché in carcere militare non potevano entrare articoli di politica, figurati. Insomma, questo è il carcere militare, per dare un'idea. In verità è molto peggio di quello che ho detto. Aggiungo solo due battute velocissime. Una, vabbè, che questo racconto della permanenza in carcere di Valerio, di questa seconda, è legata al servizio, all'obiezione di coscienza, anche del picaresco, perché poi dopo mandava le lettere con l'inchiostro di succo di limone per non farsi sgamare a mandare determinati messaggi fuori. Ma la cosa invece importante che volevo osservare, che nelle parole di Valerio c'era così fra le righe, ma volevo che fosse proprio esplicita, è che l'importanza delle esperienze politiche che ha attraversato Valerio è il fatto che sono tutte esperienze politiche non settarie, in cui persone di estrazione politica diversa, con percorsi culturali, sociali e politici diversi, hanno trovato la possibilità di fare delle cose insieme, delle azioni insieme. Lo dico da persona che fa politica in una città che dove ci sono i ghetti, no? I ghetti politici, per cui tu sei anarchico, tu sei autonomo, tu sei questo, tu sei quell'altro, tuo cugino, il fratello di tuo cugino 20 anni fa gli ha pestato in piede al mio vicino di casa, cioè quelle robe lì, per cui non ci si parla ed è difficile far convergere delle lotte. Però io ho anche la fortuna di essere parte integrante del movimento Notav, dove invece è uno di quei pochi posti dove lotte diverse, persone di estrazioni diverse hanno deciso di fare delle cose insieme. L'importanza delle esperienze che ha attraversato Valerio, questa dell'obiezione di coscienza, e poi anche l'esperienza di Radio Alice, che è anche un'esperienza di lotta e non soltanto un'esperienza culturale, è quella di essere esperienze non settarie, momenti in cui persone dal percorso diverso si sono dati il tempo e lo spazio per conoscersi e capire dove, come potevano agire insieme e come potevano contaminarsi. Questo mi sembra uno dei valori importantissimi di questa storia, che insomma ha valso la pena, secondo me, che fosse raccontata. Su questo forse Valerio, mi pare che lo accenni il libro Ciccio Messere, oggi su Radio Radicale praticamente non viene citato mai, e come la maggior parte dei temi relativi all'antimilitarismo hanno preso una piega abbastanza diversa in quell'ambito, meglio dirlo per a scanso di guerra fondaia. Sì, oggi i radicali sono diventati guerrafondai e di quell'esperienza non parlano. C'è ancora scritto, se vai a leggere sui cosi, sul sito radicale, partito non violento e così via, ma ti trovi a parlare con i radicali di oggi e non hanno idea del fatto che il Partito Radicale era antimilitarista. E quando tu gli tiri fuori i documenti, l'altro giorno mi sono divertito su Twitter, io sono un twitterolo compulsivo, a mostrare dei documenti radicali di allora a uno di Radio Radicale, questo a momenti sveniva quando gli ho detto no, qui disarmo unilaterale, che non è una parola equivocabile, che non puoi dire ma dice disarmo ma voleva dire prendere i fucili con due dita, no, disarmo unilaterale non è assolutamente equivocabile. Quando tu glielo fai vedere, la gente rimane esterrefatta. Non, ma come? Ma dicevano così? Sì, c'è scritto. è stata fatta tabula rasa di tutta una cultura che una volta esisteva. Lo dico, visto che comunque quella è una radio che comunque continua a fare radio in un certo modo, in alcuni orari, in alcune nicchie, eccetera, però per dire, Gaza è coperta da fiamma nera, sta in queste settimane. Sì, mi posso immaginare. Ecco, non sapevo che ci fosse fiamma nera in Stein, ma non mi stupisce. Non mi stupisce. Sì, ormai il Partito Radicale è un partito di estrema destra, da liberal socialista, come si definiva allora, è diventato un partito di estrema destra liberista. Boh, giustamente, cioè, avevamo parlato e volevamo fare almeno due parole su Trieste, visto che dopo tutto questo, cioè, è stata approvata la legge e però hanno dovuto anche inventarsi poi il servizio civile, no? Cioè, prima approvata la legge, però poi non è che lo Stato fosse pronto per dare, e quindi adesso non ricordo esattamente il passaggio, fatto sta che sei arrivato a Trieste, all'ex OPP nel 73-4, quindi in piena, diciamo, apertura del manicomio con Basaglia. E quindi una cosa, a parte magari raccontarci un po' di quell'esperienza, una cosa che mi piaceva è che voi, quello che dicevate, appunto, dovendo inventarvi il servizio civile, era dire ok, noi vogliamo fare questo al posto della leva, ma non vogliamo togliere lavoro ai lavoratori, no? E quindi bisogna arrivare in un posto in cui ci sono dei lavoratori, ma inventarsi mansioni che comunque siano, diciamo, aggiuntive, no? All'attività, non vogliamo che ci usino come viene spesso usato adesso, no? Il volontariato, che sembra una cosa molto bella, viene usato proprio per togliere lavoratori. Quindi, ecco, magari raccontarci quell'esperienza anche con questo. La legge esce nel dicembre 72 e improvvisamente per noi è un problema. Perché noi abbiamo chiesto per anni il servizio. L'anniversario, 15 dicembre 72. Sì, sì, è l'anniversario, esatto. Non è solo l'uccisione di Pinelli, anche la legge su omissione di coscienza. E noi avevamo chiesto per anni il servizio civile, ma che si fa il servizio civile? Cioè, tu chiedi, vogliamo il servizio civile, eccetera, eccetera. Poi un giorno c'è il servizio civile, ma come si fa? Noi non ne avevamo idea. E costituiamo la Lega Obiettori di Coscienza per cercare di gestire questa cosa, e ci rendiamo conto che noi non ne avevamo idea, ma c'era chi era messo peggio di noi, cioè il Ministero della Difesa. La legge attribuisce al Ministero della Difesa l'organizzazione del servizio civile. Vi potete immaginare i militari che gestiscono il servizio civile. Quindi andiamo a muso duro al Ministero della Difesa e gli diciamo voi non siete capaci, noi sì, non è vero, ma chi se ne frega, datelo a noi da gestire il servizio civile. Sì, si rendono conto che loro davvero non sanno che cosa fare. E la prima cosa che gli proponiamo è una cosa che loro conoscono bene, il centro addestramento reclute. I militari di leva andavano 3 mesi in certe caserme specializzate, che si chiamavano centro addestramento reclute, CAR, e facevano 3 mesi di addestramento. Poi venivano messi nelle varie caserme in cui erano a distanza. Noi gli proponiamo la stessa cosa. Ci date 3 mesi tutti insieme, noi che dobbiamo partire il primo scaglione di 50 obiettori, in cui noi la mattina facciamo il servizio, il pomeriggio discutiamo fra di noi e organizziamo il servizio civile, studiamo, ci istruiamo, ci addestriamo per farlo. Questa cosa passa perché è una riproposizione di quello che loro sanno, già fanno, e quindi per i militari va benissimo. Tu gli riproponi 3 mesi di centro addestramento, gli va bene perché è quello che fanno. Ma c'è un unico ente disposto a prendere 50 obiettori in un colpo solo, anche se per 3 mesi. Perché ci sono tutta una serie di enti che si sono proposti dicendo noi vogliamo 2 obiettori, noi ne vogliamo 1, noi ne vogliamo 5 e così via, sparsi per l'Italia. Siamo arrivati al 74, dalla fine del 72 siamo al 74. E l'unico ente disponibile è l'ospedale psichiatrico di Trieste, diretto da Franco Basaglia. E non c'è bisogno che vi racconti chi è. Perché? Perché siamo nel 74, non è ancora l'anno della legge Basaglia, che sarà nel 78, ma lui ha già cominciato a aprire i manicomi e ha posto in questo enorme manicomio, che è San Giovanni, lui ha posto perché ha già cominciato a mandare fuori gente e quindi ha posto per accogliere noi 50, ha un refettorio, è una cucina che è in grado di produrre i pasti per tutti, ha i letti, ha tutto quanto. E quindi veniamo tutti a Trieste 3 mesi. La prima cosa che ci diciamo effettivamente, quello che dicevi è giustissimo, è cosa serve il servizio civile? Io non posso fare il servizio civile per rubare posti di lavoro alla gente. Quindi io non posso andare a lavorare al posto dell'infermiere, al posto dell'impiegato, perché l'ente risparmi i soldi. Io devo fare lavori altri, lavori non previsti, di cui ci sarebbe bisogno, ma che la pianta organica non prevede, se no io rubo lavoro. E vi dirò che andando in giro per distribuire, per presentare il libro, A Vicenza, 2 mesi fa, sono stato ospitato in un circo Arci dove c'era anche la sede di un ente, di una piccola cooperativa che organizza il servizio civile. Perché il servizio civile c'è ancora. Oggi non c'è più il servizio civile al posto del servizio militare. Quello che prima vi dicevo che ha riguardato 800.000 giovani. Ma ancora oggi ci sono 60-70.000 giovani, maschi e femmine oggi, da qualche anno è universale, cioè sono ammesse anche le donne, di giovani che mettono a loro disposizione il loro corpo per un anno in un servizio per la comunità, senza nessun obbligo. Senza nessun obbligo. Bene. Questo però la legge è cambiata, adesso vanno fatti dei progetti, cioè i giovani che fanno servizio vengono presi in un ente sulla base di un progetto sociale, eccetera, eccetera. E questo gruppetto faceva proprio progetti che poi presentava ai vari enti dicendo: abbiamo questo progetto interessante, prendete 3 obiettori, abbiamo questo progetto interessante, prendete obiettori, 3 giovani di servizio. E mi diceva che ancora loro oggi nel progetti scrivono che chi fa il servizio civile non deve fare servizio che ruba posti di lavoro, cosa. Anche se purtroppo sappiamo benissimo che questo non è vero, però loro ancora lo mettono all'interno del progetto e dice che ancora alcuni enti si attengono a questa direttiva e fanno cose diverse. Vi racconto un attimo, visto che siamo a Trieste, di quella che è stata la mia esperienza in questi 3 mesi qua, perché io finisco in un a fare un lavoro particolare. Quando Basaglia arriva a Trieste trova un manicomio di tipo classico, chiuso, con la gente chiusa nelle celle, che non sono camerette, sono celle. E fra le persone che trova 3 ragazze, parliamo di 3 ragazze che avevano intorno ai 20 anni, un po' di più, non ho mai saputo l'età vera, nel libro lo racconto, perché è una roba che mi ha preso molto. Queste 3 ragazze sono in manicomio dalla nascita praticamente, non sono entrate a 15 anni, a 18 anni, sono in manicomio dalla nascita. Queste ragazze non parlano, non hanno imparato l'uso della parola. Queste ragazze non ascoltano, non hanno imparato l'uso, l'ascolto della parola. Si esprimono in maniera gutturale, si muovono in maniera pesante, perché sono, direi, animalesca, se non mi desse 2 schiaffoni... Abbiamo avuto una lunga discussione. Abbiamo avuto una lunga discussione. Anche nel libro a un certo punto interviene e dice: perché? La lobotomia non è lì. Non l'ho ancora detto. Perché? Perché loro sono pesanti, perché non fanno altro, stanno in celle tutto il giorno. L'unica cosa che possono fare è mangiucchiare, ma stare lì sedute, vengono spostate da una cella all'altra, lavate col tubo dell'acqua. Ma queste niente, queste 3 ragazze sono state tutte plurilobotomizzate, cioè gli hanno tagliato pezzi di cervello. Pezzi di cervello. Non una volta, più di una. Cioè, bambini, sarebbe un po' vivace. Non esiste. È una roba che fa spavento. Cosa fa Basaglia? Basaglia ovviamente la tira fuori da lì e ha un'intuizione banale ma fondamentale, gli mette intorno un gruppo di infermieri che sono sempre gli stessi, in maniera che tutti i giorni vedano le stesse facce. Non è una famiglia, però almeno sono le stesse facce. Comincia a stabilire un rapporto fra esseri umani, perché gli infermieri tornano, ovviamente. Invece quel gruppetto lì si occupa solo di quelle tre ragazze. E a me e altri due obiettori di coscienza chiedono di dare una mano a questo gruppo di infermieri per quello che possiamo fare. È una roba faticosa, una roba anche un po', fra virgolette, pericolosa, perché se una di queste ragazze che pesano decide che lì c'è una roba che la incuriosisce, si alzano e vanno lì a prenderla, ti passano addosso con i loro 100 kg abbondanti, ma non perché ti vogliono fare male, perché non esisti. Chi sei? E se hanno qualche crisi psicotica, come lo fai a non averne avendo passato una vita in quel cazzo di manicomio chiuso in una cella a non averla, ma se ti danno uno schiaffone ti sbattono. Pano. Insomma, è una roba pesante, veramente pesante. E uno di noi obiettori di coscienza ha un'idea e dice, era di Bologna anche lui come me, dice io c'ho una casa in campagna. C'ho una casa in campagna vicino a Bologna, un posto tranquillo, non ci sono pericoli oggettivi, non ci sono automobili, non c'è cosa, c'è una piccola borgata, ma alla fine fuori che i due mesi d'estate non ci abita nessuno. Proviamo a portarle fuori dal manicomio 15 giorni. E Basaglia dice sì. Basaglia aveva già cominciato a mandare fuori persone, assumendosi un rischio pazzesco, perché se succedeva qualcosa lui era responsabile penalmente delle persone che mandava fuori. Ma erano sempre tutte persone autonome, tutte persone che con l'aiuto dell'infermiere che arrivava a trovare ogni tanto, con l'aiuto della famiglia, con la pastiglina e tutto quanto, in qualche maniera si gestivano. Queste non sono autonome. Dice sì, prendiamo queste tre ragazze, le carichiamo sul pulmino, un pulmino Volkswagen, insomma siamo in otto, fra infermieri, obiettori e ragazze, le portiamo a Bologna, sopportano il viaggio benissimo, viviamo 15 giorni con loro, e facendo la vita di famiglia, perché non hai più il pasto che arriva dal refettorio con la gente, il matto che mangia seduto al tavolaccio, e l'infermiere che sta in piedi lì e che ti dà una mano ma non partecipa, ma si mangia insieme, si cucina insieme, si dorme insieme, non è più che la sera l'infermiere sta fuori dalla porta e tu dormi, ok? Si dorme nella stessa stanza insieme, è quasi una famiglia. Le ragazze in 15 giorni non hanno una crisi psicotica, stanno benissimo. Io sono ancora convinto che questa esperienza qui sia stata un ulteriore incentivo per Basaglia, perché lui ci aveva le idee mille volte più avanti delle mie su come aprire i manicomi, ma un'esperienza così radicale di portare fuori tre persone che non erano autonome, credo che non gli fosse venuta in mente neanche a lui. Invece così ha verificato che si poteva, con le condizioni giuste, fare. Un anno fa ho incrociato uno psichiatra che ha lavorato anni dopo con Basaglia, che è venuto qua, credo che fosse intorno all'80, e mi raccontava che quando è arrivato lui, di quelle tre ragazze in manicomio ce n'era rimasta una sola, quindi due in qualche maniera erano uscite, non so come, non so perché, ma erano uscite. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, ce l'ho detto parlare. No, volevo parlare al mio, diciamo. Sì, no, molto dura passare adesso l'argomento dopo, non volevo interrompere, ma più per, credo che potremmo stare qua tutta la notte, però mi sa che magari voi volete riposare un poco, quindi... Ma non so se voi ce la fate. Cioè, sì, qua abbiamo detto... Fate la gara di resistenza. Abbiamo detto fino alle 9 forse, però non si ricorderanno. Sì, esatto, io volevo passare là anche perché confesso il pezzo che non ho ancora letto, ho letto l'inizio ma non sono ancora arrivata là. E, no, e volevo leggere, però stavo leggendo questo, che per il quarantennale di Radio Alice è stato scritto questo articolo e c'è un estratto qua nel libro che stanno presentando. Volevo leggervi un pezzetto e poi farvi una domanda. E dice, tanti non erano neanche nati ai tempi. Eppure, da come mi parlano, spesso mi sembra che nessuno consideri Alice come storia antica, ma come un passato recentissimo. Quindi siamo entrati nel mito, ma contraddittoriamente un mito di stamattina. Come gli eroi della canzone, la radio è sempre giovane e bella. In fondo, potrebbe essere anche questa una lettura. Radio Alice è ancora così amata perché è morta prima di invecchiare. Ma certamente 40 anni di interesse verso il nostro lavoro non possono essere circoscritti solo da questo. E io in questo volevo chiedervi comunque, ma per chi invece non avesse avuto la fortuna di conoscere Radio Alice o di ascoltarla, leggerne, cos'era Radio Alice, cosa ha rappresentato e perché è così importante adesso? Allora, io devo prendere un aereo per la Sardegna, quindi cercherò di stringere. No, cioè, sulla Radio Alice c'è da parlarne, sono stati scritti libri, libri e libri. Anche in questo c'è una parte abbastanza corposa. La prima cosa da dire è che la Radio Alice non era una radio. Il fatto che trasmettesse su delle frequenze radio è solamente puramente tecnico, ma non era una radio. Perché cos'è una radio? Una radio è uno strumento di comunicazione monodirezionale, ne parlavamo prima, mentre bevevamo qualcosa in attesa. Una radio prevede un punto di emissione, uno speaker, un punto in cui vengono messi dei dischi o così via, e n.000 ascoltatori. Una radio come una TV, come un libro, come un giornale, prevede una comunicazione monodirezionale, cioè da uno a molti, senza feedback. Oggi c'è un po' di feedback, possiamo commentare qualcosa sul sito, ma non è sostanza. Non cambia il paradigma che uno parla e gli altri ascoltano. Che è tutto il contrario del social. Il social è invece un luogo dove, in teoria, ognuno di noi può parlare a chiunque altro. Molto in teoria, però tecnicamente è così. Tu puoi discutere con il presidente degli Stati Uniti, non ti risponderà, ma in teoria gli puoi parlare, così come lui può parlare a te, è orizzontale. Bene, la radio invece no, è monodirezionale, dal centro alla periferia. E qualsiasi radio al mondo si preoccupa di guadagnare ascoltatori, qualsiasi giornale si preoccupa di guadagnare lettori, qualsiasi trasmissione televisiva si preoccupa di guadagnare spettatori. Ok? io mi preoccupo di vendere molte copie del libro. La radio, no. Sul libro c'è scritto che lo potete copiare. è ammesso. Radio Alice no. Radio Alice si preoccupa di guadagnare parlatori, che è una cosa completamente diversa. Dicevo prima, rovesciare il paradigma dell'uso della tecnologia. Radio Alice è l'unica radio al mondo che si preoccupa di guadagnare persone che vengano a parlare, non di fare trasmissioni più interessanti, di guadagnare quello che attira ascoltatori, ma di guadagnare gente che venga a parlare, indipendentemente dal numero degli ascoltatori. È questo che differenzia Alice da qualsiasi altro strumento di comunicazione, è questo che provoca poi quell'immaginario collettivo per cui ancora oggi, quando parli con la gente, ti dice: ah sì, Radio Alice ha cambiato la comunicazione nel mondo. Perché rovescia il paradigma. Il problema è che non è così semplice, lo racconto nel libro, soprattutto non era così semplice 47 anni fa rovesciare questo paradigma, perché non è che basta prendere il microfono e girarlo dall'altra parte per ottenere che la gente parli. La gente, soprattutto allora, oggi siamo molto più abituati, siamo più sgamati, siamo abituati a lasciare i vocali e così via, ma la gente allora, se giravi il microfono, si tirava indietro perché tutti si sentivano inadeguati a parlare, e quindi bisogna spaccare questo meccanismo, questa censura, che è la censura più dura di tutte, l'autocensura. E noi individuiamo tre elementi fondamentali. Adesso io qui nel libro lo dico in maniera schematica, in verità non è stato così schematico, però noi ragioniamo su questa cosa. Il primo volantino che facciamo nel 75 è: chi trasmette a chi? Cioè già la frase è bidirezionale, cioè c'è il chi prima e il chi dopo, puoi girare in un senso o nell'altro. Diciamo dare voce a chi non ha mai avuto la parola. E noi decidiamo che ci sono tre elementi. Il primo è il linguaggio. L'abitudine in Rai o alla BBC o in quasi tutte le radio del mondo è che parla chi sa parlare. Uno con il mio difetto di pronuncia non parla in Rai. In Rai per parlare dovevi superare un esame di fine dicitore, non dovevi avere inflessioni dialettali, non dovevi avere accentazioni, non dovevi sapere coniugare il congiuntivo in maniera perfetta, non potevi dire parolaccio, bestemmie. Noi decidiamo che si parla sporco, noi decidiamo che si parlerà il linguaggio della strada. Ognuno come vuole, non è obbligatorio parlare sporco, ma ognuno parla come si sente. Nessuno si deve sentire inadeguato nel suo modo di parlare. Il resto del Carlino ti troverà dopo i primi giorni di Radio Alice. Radio Alice scrive i suoi testi sulla carta igienica. Chi ha visto il film Lavorare con lentezza, su Radio Alice c'è la scena di uno di noi che esce dal cesso con un proclama scritto sul rotolo di carta. Ovviamente è un'invenzione degli sceneggiatori, che sono poi Wuming, pertanto per cambiare, tratta da questo discorso del Resto del Carlino, da questo titolo del Resto del Carlino. Nessuno si deve sentire inadeguato. L'operaio, come lo studente universitario, deve sentire di poter parlare. Gli studenti a Val Camonica verranno a trasmettere Radio Alice a Bologna in stretto dialetto camone, senza che si possa capire una sola parola di quello che dicono, perché va sicuro che il dialetto camone è ostrogoto, ma non per modo di dire, è ostrogoto. L'unica cosa. Il segnale non arrivava, immagino. No, in Val Camonica non arrivava. però dicono regolarmente una frase che è: perché noi camunisti, ogni tot 3 minuti dicono questa frase in italiano, che è l'unica cosa intellegibile della loro trasmissione. Quale radio si può permettere di trasmettere qualche cosa che non è ascoltabile dagli ascoltatori? Radio Alice. La seconda cosa, il secondo paletto, la seconda censura che abbattiamo è il palinsesto. Chiunque abbia fatto radio, TV, sa che cos'è un palinsesto. Un palinsesto è una serie di scatole. Una serie di scatole che scatolano i contenuti. Alle 10 c'è il notiziario, alle 11 c'è la trasmissione di cucina, alle 12 c'è la musica, il lunedì c'è Giovanni, il martedì c'è Filippo e così via. Scatole. Quale giornale non ha la prima pagina dedicata a certi argomenti, la terza dedicata alla cultura, quale TV, quale radio non trasmette il telegiornale alla stessa ora? Ve lo immaginate? Anche i più rivoluzionari trasmettono tutti hanno un'ora. Radio Alice no. Radio Alice non ha palinsesto. Io lo so bene perché sono uno di quelli, Alice me lo rimprovererà nel libro, sono uno di quelli che era contrario a questa cosa. Ho capito dopo che ci avevano ragione i miei compagni, i miei amici. E io all'inizio pensavo una radio sì, libera, però più strutturata. E invece noi decidiamo che non ci sarà palinsesto. Perché? Perché io entro in radio e dico, ah, io adesso vorrei trasmettere. No, adesso no, perché trasmette già lui. Allora vengo domani. Ah, no, trasmette lui. No? C'è una gerarchia che decide chi trasmette in qualche maniera. Ma avere una gerarchia vuol dire che io non sento la radio come mia. Non è un qualcosa che mi riguarda. È qualcosa che mi viene messo a disposizione. Noi decidiamo che nessuno deve dire a nessun altro se può trasmettere, come può trasmettere. Nessuno deve immaginare che io sia obbligato a fare una trasmissione di 10 puntate a una certa ora o cose di questo genere. Io vengo quando mi pare. Se voglio venire tutti i giorni alla stessa ora a fare la stessa trasmissione va benissimo, voglio venire una volta solo nella vita, vengo una volta solo nella vita, il cuoco di Radio Alice sta in radio per lungo tempo e non trasmette mai alla radio, ma cucina dei piatti di pasta che mette in mano la gente che entra. E lui fa Radio Alice, perché non c'è regola. Entro e c'è qualcuno che sta trasmettendo? Mi siedo di fianco a lui, se ho voglia, e procedo con lui. Perché la trasmissione non è la sua e la trasmissione non è la mia. Nessuno ha la proprietà delle trasmissioni. La terza censura che noi scopriamo è la più banale. Trasmette davanti a una radio chi riesce a passare la porta. Non esiste una radio, non esiste un giornale, non esiste un posto che non abbia una porta. Quindi trasmette se qualcuno ti apre la porta. C'è una forma di gerarchia anche così. Radio Alice non solo non ha la serratura sulla porta per mesi, perché si rompe subito e nessuno la ripara. Con grandi problemi per chi rimane lì da solo, che rimane lì da solo, finisce e vuole andare via e non può andare via perché lascerebbe la radio sguarnita. E allora resta lì e la affida al primo che entra dentro, che è probabilmente uno che è entrato per la prima volta in radio, che non ne sa niente e che però diventa a quel momento il custode. Nessuno ruberà mai nulla a Radio Alice. Entra la polizia. tranne la polizia. E cosa sto dicendo? Ah, sì, ma Radio Alice fa una cosa che è banale, ma è la prima radio in Europa e probabilmente nel mondo, forse qualche radio americana l'aveva già fatto, che spacca completamente il problema. Radio Alice attacca il telefono in maniera strutturale al mixer radiofonico. Non esistevano le trasmissioni in diretta alla RAI, nulla veniva trasmesso con gli speaker che parlavano direttamente, ma tutto veniva registrato, tagliato, montato e poi trasmesso. Figurarsi le telefonate in diretta, dove non sai neanche chi hai dall'altra parte del telefono, non sai cosa dirà. Radio Alice collega il telefono. Questo stravolge completamente la comunicazione, perché non hai più bisogno di passare la porta per fare radio. Da casa tua, se hai il telefono, allora non tutti ce l'avevano, ma dalla cabina del telefono sotto casa, col classico gettone, tu puoi fare radio. È per questo che ci arrestano nel 77, dopo l'assassinio di Francesco Russo, perché dicono che noi dirigevamo gli scontri. Ci sono gli scontri, c'è la polizia, ci sono le barricate. Nel quartiere universitario di Boroni ci sono le barricate. Per la prima e unica volta in Europa del dopoguerra entrano a Bologna i mezzi corazzati per reprimere la rivolta. Noi siamo accusati di avere diretto la rivolta. Non è vero, non abbiamo diretto niente, abbiamo fatto quello che abbiamo fatto per tutto l'anno precedente. Abbiamo messo in diretta le telefonate. È chiaro che il compagno che vede la polizia avanzare, che vede gli studenti che si spostano nella piazza di fianco, entra nella cabina telefonica, mette il gettone e dice: vedo questo, vedo quest'altro. Ma tanta gente girava con la radiolina in tasca, perché bisognava ascoltare Radio Alice, non potevi perderti le trasmissioni di Radio Alice. Tanti bar avevano le radioline accese su Radio Alice, le persone in casa avevano la radio accesa su Radio Alice. E c'è un problema, ed è che la parola in diretta modifica l'azione. Non è che noi dirigevamo gli scontri, è che se tu sai, perché hai sentito per radio, che la polizia sta avanzando per la strada parallela, ti sposti. No? È banale, la parola modifica l'azione. Oggi fa ridere, oggi qualsiasi cosa facciamo qui, fra 12 secondi l'avete postata su qualche social, la sanno in Giappone, in Brasile o nel palazzo di fianco, perché tanto non c'è differenza. E allora era una roba spaventosa. Nessuno aveva mai trasmesso in diretta quello che succedeva, nessuno aveva mai modificato il quotidiano nel momento stesso di cui ne parlava. Questa è Radio Alice. Poi è tanto altro, ma va bene. Magari approfittiamo per raccontare velocemente, visto che hai già parlato dello sgombero che è avvenuto sulla... Volevi dire qualcosa? No, ma mi era venuta in mente una roba, ma... Vai. Forse... Vabbè, la dico subito, così poi... Adesso, mentre Valerio raccontava, sono cose che ho sentito raccontare dalla sua voce molte volte, che, su cui ho riflettuto, le ho trascritte e così, però mi veniva in mente, anche ricollegandomi alla cosa che diceva in apertura di questa serata, di questa presentazione, mi viene comodo utilizzare una terminologia introdotta da Walter Benjamin, non me la voglio tirare, però perché ci sono prodotti che sono prodotti del mercato, ci sono prodotti che trasformano il mercato e ci sono cose che non sono prodotti e sono processi. E diciamo, per un certo, in un certo qual modo, Radio Alice è stata anche un prodotto di trasformazione del mercato, cioè ha introdotto delle cose che hanno cambiato il mercato della comunicazione. Contemporaneamente non era il suo scopo quello di cambiare il mercato, il suo scopo era essere un processo. E per cui alcuni suoi aspetti, tipo questa, no? Dirompente, del fatto di aprire il microfono, aprire la comunicazione a chi stava a casa, no? Poi è diventata nelle radio commerciali il momento della dedica, la persona che telefona e dice: voglio dedicare questa canzone a Ciro o a Mariella. Che poi appunto è diventata una roba importantissima su cui si è fondata, continua a fondarsi la radio commerciale, perché quel momento lì di piccolo protagonismo crea ascolto, crea l'ascolto di chi fa la dedica e di chi riceve la dedica. Allora in quel momento invece era tutta un'altra cosa, per cui se vogliamo analizzare la cosa utilizzando queste categorie, è stata un prodotto di trasformazione del mercato, ma che è nata con un altro fine, con quella di essere un processo, di essere una trasformazione sociale, no? Volevo fare solo questa piccola annotazione. Sì, in realtà io volevo chiedere una cosa molto più banale, ma giusto perché giustamente quando uno prende il libro in mano, legge il titolo e dice: ma che cazzo vuol dire questo, no? Ma magari qualcuno lo sa, è la domanda che ti avranno fatto ogni volta, magari la puoi rispondere tu se vuoi. Ecco, giusto, sarebbe proprio molto teatrale, infatti nel libro è uno dei pochi, se non ricordo male, uno dei pochi momenti che sono registrati, giusto? Quindi si può anche ascoltare, però ecco, se vuoi un minutino a raccontarla. Sì, beh, tanto un inciso sulla dedica. Anche da noi telefonavano gli ascoltatori per ragioni loro. E com'è la dedica, no? Che erano telefonate di questo genere. Voglio dire a Giovanna che l'aspetto in piazza. Oppure, ho finito di lavorare, fra 10 minuti sono a casa, i miei possono buttare la pasta. E non sto scherzando, sono fatti veri, cioè il telefono viene usato per ragioni alte, tipo una volta che, tipo le telefonate dalle piazze, le telefonate dalle manifestazioni, ma tipo anche Bifo che un giorno telefona ad Andreotti in Parlamento, raccontiamo, spacciandosi per Umberto Agnelli, allora senatore, risponde, sì, ve la lascio a leggere, oppure quella volta che abbiamo alzato il telefono e al posto di qualcuno che parlava c'era un assolo di sax struggente, un pezzo di soul incredibile. e quindi radio senza passare la porta. La gente si appropria a Radio Alice, la nostra scommessa che vi raccontavo di guadagnare parlatori, la vinciamo. Nel giro di un mese dall'apertura della radio, il gruppo fondatore sparisce perché la radio è diventata proprietà di tutti. Migliaia di persone trasmettono a Radio Alice negli anni, 3 anni in cui è stata viva. E non per modo di dire. L'unico dei fondatori che c'è la testa dura perché di mestiere fa il monomaniaco sono io, e io resto per tutti e 3 gli anni quasi regolarmente in radio, insomma, e gli altri miei compagni vanno in carcere. negli anni, cioè nei mesi si allontanano, poi tornano, poi ci sono, non ci sono e così via. Ma la radio vive di vita propria. Questa mia monomania mi porta il 12 di marzo del 77 a essere presente in radio. Il 12 di marzo è il giorno dopo l'assassinio di Francesco Lorusso, per cui ci sono state le rivolte in piazza, per cui il quartiere universitario è chiuso dalle barricate e così via. È un momento di relativa tranquillità, tutto sommato, cioè il grosso degli scontri si è fermato, anche perché c'era una grossa manifestazione a Roma già programmata da lungo tempo, per cui tanti compagni erano andati a Roma alla manifestazione nazionale. E in radio stiamo sistemando un po' di cose, io in particolare sono lì che con mio fratello, che mi era venuto a dare una mano, sistemo dei baracchini CB perché voglio andare a fare delle interviste in giro per Bologna e così via. E sentiamo bussare alla porta, che nel frattempo è stata riparata, molto forte. Sono le 11 di sera, guardiamo dalla finestra, la radio si affaccia su un posto luce e di qua dal posto luce ci siamo noi con la finestra e di là c'è la finestra che dà sul ballatoio delle scale. Sul ballatoio delle scale c'è un gruppo di poliziotti in tenuta antisommossa con i mitra, i giubbetti antiproiettile, i caschi e tutto quello che ci va dietro. Sono quelle immagini a cui voi oggi siete abituatissimi, perché qualsiasi telefilm c'era SWAT e ci sono tutti con i giubbetti antiproiettile, i mitra e così via. Non si era visto mai. In Italia non si era mai visto un poliziotto col mitra in mano. Allora avevano il manganello, avevano la pistola nella fondina, ma col mitra non si era mai visto e non si vedevano girare col giubbetto antiproiettile, qualche casco in qualche situazione. Una roba spaventosa. Io li avevo visti per la prima volta, parliamo del 77, un mesetto prima guardando un film tedesco, il caso Katharina Blum. Non avevo mai visto giubbetti antiproiettili. Una roba che fa spavento. La cosa che mi viene in mente è la chiusura, ma c'era stato il colpo di Stato, dei colonnelli in Grecia della radio universitaria, in cui erano entrati e avevano ammazzato tutti. Tutti. Quindi non apriamo e diciamo chiamiamo gli avvocati. Vogliamo gli avvocati e continuiamo a trasmettere. Non sono solo io a aver pensato che potrebbero ammazzarci tutti. Noi siamo in quattro in radio, eravamo più di una ventina, ma la maggioranza scappa dai tetti. Radio lì c'è un porto di mare, corpi che entravano e uscivano, tante quanto le onde orziane, insomma. Scappano tutti dai tetti, rimaniamo in quattro, io, mio fratello, perché siamo dei tecnici e un tecnico non abbandona mai l'apparecchio, e due che non se la sentono di girare sui tetti di notte. Due ragazzi che era la prima volta che entravano in radio. Ma mentre siamo lì, arriva un altro compagno per via del fratello, la strada, vede la polizia tutta schierata, corre su per le scale per avvisarci che c'è la polizia sotto e si trova il fucile piantato in fronte, perché la polizia era già su. Ma la cosa interessante non è che questa, cioè ovviamente per lui è stato interessante, La cosa interessante è che mentre lui è lì, un minuto dopo arriva di corsa su per le scale un tenentino che urla: non sparate, non sparate, sono in diretta. Non l'abbiamo pensato solo noi che potevano sparare, l'hanno pensato i poliziotti stessi. E infatti noi non sappiamo di questo tenentino, ce lo racconta dopo il compagno, però quando entrano io grido varie volte forte forte, chi ha ascoltato la registrazione di Radio Alice, chi ha visto il film Lavorare con lentezza, c'è in fondo nei titoli di coda la mia voce, urlo forte: siamo qui con le mani alzate, siamo qui con le mani alzate, perché insomma, almeno se si ammazzano che lo sappiano che eravamo lì con le mani alzate. E la frase, il titolo del libro, per stemperare un po' l'atmosfera un po' pesantina, mentre la polizia batte sulla porta gridando porco Dio aprite, noi che gli diciamo aspettate che arrivano gli avvocati. Era un porco Dio di... Sì, sì, sì. Era bidirezionale il porco Dio, sì, sì. Ma... la famosa comunicazione interpersonale, interlinguistica, interrazziale, che funziona sempre. Mentre siamo lì, decido di stemperare un po' la situazione, dico, beh, mettiamo su un disco, guardo un attimo, prendo un disco e dico, ecco qui Beethoven, se vi va bene, bene, se no seghe. E questo è il titolo del libro. Accende dopo Radio Alice, perché sì, sì, in realtà cioè, abbiamo no, però Radio Alice è altre 6-7 domande io no, è che sono lento a parlare, non sono un buon radiofonico, ma io avrei giusto una domanda proprio sulla questione di cui tu hai parlato, ma l'hai un po' lasciata sullo sfondo, no? Il fatto che era una radio però solo dal punto di vista tecnico. Io però vorrei andare un po' su questo, cioè la tecnica c'era e tu eri appunto una delle persone che permetteva a Radio Alice di funzionare, ed è anche uno degli aspetti che ha un po' caratterizzato buona parte della tua vita anche professionale, che si intreccia in questo caso con la militanza. E quindi mi interesserebbe capire se in quel momento voi avete fatto un ragionamento anche su cosa significava avere quel tipo di tecnologia, appropriarsene, lavorarci con le mani, oppure no. E poi quello che è successo anche in un secondo momento, così magari possiamo anche coprire la parte successiva del libro, almeno in parte. Cioè, che vuol dire poi mettere le mani su quello che è uno strumento tecnico, imparare a capire come funziona, imparare a capire come modificarlo, imparare a capire come possiamo usarlo in un modo che è interessante per noi, senza che ci sia uno sfruttamento da parte di terzi, che invece è un tema che adesso è estremamente rilevante, come hai in parte accennato prima, per quanto quello che riguarda le piattaforme che vengono usate oggi per comunicare. Quindi qua avevamo un tipo di comunicazione che in qualche modo veniva autogestita, veniva insomma autoregolata con tutta una serie di potenzialità. Altro capitolo lunghissimo su cui bisognerebbe discutere ore, perché apre tutta una serie di scenari estremamente attuali, hai ragione, riferendoci alle piattaforme, riferendoci alla comunicazione in generale e così via. Io nasco in una famiglia che si occupa di tecnologia, di elettronica, sono un tecnico perché fin da bambino smanetto. Mi pongo il problema di come usare la tecnica, Radio Alice come tale meno. Radio Alice come tale, nel senso dei miei compagni che fanno la radio con me, no. Si preoccupa invece di ragionare sulla comunicazione, che è una tecnologia anche questa. ma infatti sono i miei compagni che hanno l'intuizione di abbattere il palinsesto, di ragionare sulle tecniche, sulle logiche di comunicazione descritte da Marshall McLuhan, per cui il mezzo è il messaggio e così via. E quindi sono loro che caratterizzano la radio molto più di me da questo punto di vista. Però quello che ha l'idea di usare la tecnologia in maniera diversa sono più io. Sono io con mio fratello che decidiamo, ad esempio, autonomamente, senza neanche averne parlato con gli altri, di collegare il telefono al mixer e quindi di un uso diverso della tecnologia. Ma però all'interno della radio nascono tutta una serie di competenze e interessi a stravolgere il mezzo, non più solo il mezzo di comunicazione, ma il mezzo anche tecnologico. Perché noi parliamo di Radio Alice come se fosse una radio. Ma, come dicevo, non lo è. Perché è a Radio Alice che la gente studia come rallentare la rotazione dei contatori del gas e elettrici con dei magneti per diminuire. Allora i contatori avevano una rotella che girava, non so se qualcuno se le ricorda. Rallentare quella rotella vuol dire pagare meno l'energia. Questo nasce dentro Radio Alice. È a Radio Alice che inventiamo i biglietti del treno falsi, per cui ci sono migliaia di persone che girano l'Europa con i biglietti del treno. Allora i biglietti del treno erano dei cartoncini grandi così, non li avete visti, erano dei cartoncini grandi così, grandi come una carta di credito, diciamo, ma di cartone, non morbidi, duri. E noi spieghiamo come farli falsi, comprandone uno per Parigi, duplicandolo e rendendo quello comprato, perché allora potevi rendere il biglietto non usato non obliterato, e per cui migliaia di persone vengono al convegno contro la repressione del 77 col biglietto falso. Siamo noi che distribuiamo per tutta Italia la chiave della parte superiore della cabina del telefono, delle cabine, quelli a gettone di cui si parlava, per cui aprivi con quella chiave lì, mettevi dentro il gettone, mettevi una mano sotto, recuperavi il gettone, lo rimettevi dentro e in questa maniera tutti gli studenti fuori sede potevano chiamare casa senza pagare le telefonate interurbane che costavano un sacco di soldi e così via. Insomma, a Radio Alice nascono tutta una serie di logiche su come riutilizzare la tecnologia in maniera diversa. Culturale. Che sono proprio culturale, sì. E che è la ragione per cui poi io nel 77 racconto che nel libro compro uno dei primi Apple, i primi computer che arrivano dall'America, ne arrivano 10 in Italia e uno è mio, perché ho deciso che questa roba che avevo letto sulle riviste americane era importantissima e non potevamo lasciare questa tecnologia di comunicazione e di elaborazione in mano solo alle industrie, bisognava impadronirsene. È la stessa logica per cui adesso nelle ultime pagine del libro parlo di un progetto software che ho intenzione di portare avanti per scrivere del software per computer di classe, cioè software dedicato alla classe operaia, che serve alla classe operaia per il suo lavoro, per difendersi con i problemi legali per acquisire conoscenze che possono servire alla classe operaia. Non esiste al mondo software scritto per la classe operaia. Potete trovare software scritto per qualsiasi tipo di attività umana, ovviamente per tutti i tipi di lavoro, per tutte le industrie, per tutte le aziende commerciali, per il tempo libero, per il fitness, per la medicina. Trovate software di qualsiasi genere, non trovate software scritto per l'operaio metalmeccanico, non trovate software scritto per il rider, per lui, non per l'azienda, che gli permetta di difendersi dall'azienda, che gli permetta di acquisire conoscenze e informazioni. Non lo trovate. E bisogna cominciare a farlo. Mi sembra una buona chiusura, ma se volete... Facciamo una cosa da Bialice, dai. Avete il microfono, chiamate... Infatti, a proposito dei mezzi di microfono, c'è qua... Qualcuno vuole dire una piena... per favore. Niente, non sembra, sì, in realtà puntava molto le 9, vedo la, hanno guardato in varie volte. Ci sono ancora due libri, uno mio. Comunque in teoria dovrebbero arrivare al dritto, dei Danus, andate nella vostra libreria di fiducia. Allora, questo lo diciamo, comunicazione di servizio, il libro si trova più o meno in tutte le librerie, cioè normalmente distribuito, libreria di quartiere che noi sponsorizziamo perché ci piace che il libro venga comprato nelle librerie e non su Amazon, e la vostra libreria ve lo procura facilmente perché è un libro di normale distribuzione. Se lo dovete comprare online potete comprarlo sul sito dell'editore, che poi ve lo fa comprare da Feltrinelli in verità, esiste per chi lo desidera in formato digitale, cioè su Amazon c'è in formato Kindle e su Feltrinelli in formato Kobo e Pub. Io ad esempio ormai compro solo libro in digitale perché nella mia casa di 40 metri quadri non c'è più posto per inserire nulla, insomma. C'è tutto, per cui non c'è problema a reperirlo. E come dicevo, il libro si può copiare, si può fare quello che si vuole del libro, poiché non sia un'attività commerciale, ovviamente. Per cui diciamo che c'è un copyright sopra, ma nella logica di Alice è libero come fruizione. Anzi, vabbè, sì, mi chiedono anche di fare la pubblicità. Io volevo dire solo una cazzata, è che la legge italiana per il copyright dice che non si può fotocopiare e stampare oltre il 15% del contenuto del libro. Io dico non molto oltre il 15% dei vostri contatti divulgati. niente, però invece domani, non so esattamente dove, però organizzato da Smart Pride, questo me lo ricordo, cioè domani in via Trabocchia con una C, in via Trabocchia numero 3 alle 5 e mezzo, 6, insomma, anzi arrivate alle 5. Fondazione comunista. No, non fare casino sulle scale. Sì, ecco. Vabbè. E chiedono i compagni di Fondazione Comunista di fare silenzio quando si salgono le scale perché hanno problemi con i vicini. Ecco. Allora, diciamo che c'è, sarebbe a un po' numero chiuso, quindi insomma, se arrivano 300 persone non ci stanno tutte. Quindi arrivate presto, e se ne avrete buttate fuori. Ultima cosa. Ma non hai detto anche perché? Ah, mi hanno ricordato una cosa. No, infatti, aspetta un attimo, finiamo una cosa. Adesso. E effettivamente non abbiamo detto cosa, penso che più o meno si sa. Domani presentiamo lo spettacolo Mostre Fiere. Di Filo Sottile, di e con Filo Sottile, quindi... Venite. Ore? Come speziamo? 5:30, via Tarabocchia 3. Campanello, Rifondazione Comunista. Ora mettiamo una... Dai, mettiamo una precisa sopra. Tra l'altro non ci saranno loro, vabbè. Ah no, io allora faccio una comunicazione un po' più seria, e comunque ci sono delle spese di viaggio, ci sono delle cose che si potrebbe contribuire anche per questo, comprare il libro, cioè fa comodo. E poi volevamo ricordarvi che Stecco è ancora in prigione. Ancora? Sapete, no? Fai giusto, fai due parole, due. Vabbè, c'è un compagno che è stato arrestato dopo un po' di latitanza, stiamo raccogliendo così dei contributi per sostenerlo, almeno da un punto di vista legale. Quindi, se volete, questa è la maxi cassa che va riempita. No, sta andando molto bene in realtà la raccolta fondi, quindi avrete già tutti contribuito. Va bene, volete chiudere voi con qualche parola, una cosa? Motto. Ma no, non è per il libro. Valerio, ci puoi ripetere con quanto più possibile il titolo, ma se sei in fase del tempo. Cioè, se non avessi trovato. Cioè, cosa cercavi quando hai pescato Beethoven? Dici questo. Cosa avresti voluto che venisse fuori? Non lo so, ma l'idea di pescare più o meno fra i dischi classica ce l'ho avuta abbastanza subito, perché mi sembrava più adatto che non un brano di Albert Tyler o di Sun Ra e così via. Alice trasmetteva di tutto, trasmetteva dalla musica modale, da rinascimentale all'elettronica tedesca, al rock più spinto, ovviamente soprattutto rock, ma moltissimo jazz, moltissimo autori italiani, politici. Il film Lavorare con lentezza prende il nome dalla canzone di Enzo Del Re, che tutte le mattine per un periodo invitava le persone a rimanere a letto, non andare a lavorare e comunque a lavorare con lentezza. Enzo Del Re suonava la sedia, sì. Non so se devo chiudere io, non saprei come chiudere. Ci sono 3.000 cose che potrei raccontare, spero che le leggiate nel libro. In verità non abbiamo parlato di un sacco di argomenti, non abbiamo parlato delle TV di strada, il progetto TV Street dei primi anni 2000, in cui facciamo queste micro TV rovesciando un centralino d'antenna che viene fatto, costruito per mandare il segnale che entra nell'antenna a tutte le prese dei televisori di un palazzo. Noi lo rovesciamo e mandiamo in antenna la potenza del centralino per fare delle micro TV, e facciamo le TV di strada. Non ho parlato di un sacco di roba. Siamo a pagina, mancano 100 pagine alla fine. Leggete il libro e poi scrivete su Twitter. Vabbè, possiamo dire che su Radio Alice esiste un sito web che si chiama radioalice.org, esiste il sito di TV Street che si chiama tvstreet.it, che sto costruendo adesso, che esistono vari siti su obiezioni di coscienza, fra cui se la patria, c'è il mio sito valeriominella.it, sì, e c'è anche se la patria chiama.org, che è il giornale antimilitarista che avevo fondato nel 71, mi pare, con tutte le pagine sfogliabili, e c'è altra roba, ci sono cose.